Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Oggi proseguiamo il nostro viaggio nel filone dello studio all'estero, in particolare per quanto riguarda le carriere universitarie, e lo facciamo portandovi l'esperienza e soprattutto le dritte di una giovane studentessa di ingegneria che ha scelto la Danimarca per svolgere il proprio percorso accademico. Con lei andremo alla scoperta delle opportunità a Copenaghen per quanto riguarda le materie tecniche e vi riveleremo come esistono paesi dove si viene persino pagati per studiare. Le puntuali segnalazioni della collega Francesca Barbieri del Sole 24 Ore sull'opportunità di bandi aperti con vista sull'estero introdurranno questa seconda puntata di maggio, mentre nello spazio Job Abroad tornerà a farci compagnia l'agenzia Eures Italia con nuovi appuntamenti e occasioni per lavorare in Europa. A chiudere vi parleremo di un libro che ha seguito passo passo le vite dei nostri giovani expat, un tracciamento negli anni che ha portato l'autore a trarre una serie di importanti considerazioni su come stia cambiando questa generazione mobile, ma soprattutto globale. Siete pronti per salpare verso la Danimarca? Generazione Mobile continua a portarvi in giro per il mondo in questo periodo di chiusure dei confini. Generazione Mobile. Lo spunto della settimana ci offre un aggiornamento in merito alla questione delle borse Erasmus Plus in tempi di coronavirus. Abbiamo adottato misure per garantire che gli studenti possano continuare gli studi da remoto, che possano mantenere la borsa Erasmus Plus e coprire eventuali costi aggiuntivi sostenuti a causa della pandemia. Così la commissaria europea alla cultura e alla ricerca Maria Gabriel. Dalla database della commissione risulta che al momento della diffusione dell'epidemia erano circa 165.000 i partecipanti all'Erasmus Plus in altri paesi. La commissaria ha spiegato che le stime indicano che, nel caso della mobilità a lungo termine, che interessa principalmente studenti dell'istruzione superiore, circa il 60% dei partecipanti ha annullato il percorso, il restante 40% ha continuato invece il progetto. La maggior parte di loro ha accesso all'apprendimento online dal paese ospitante o di origine. Bene, è arrivato il momento di Toolbox, la nostra cassetta degli attrezzi utile a orientarvi nel mondo del lavoro internazionale. Tornano così i consigli pratici del Sole 24 Ore. Ascoltiamo cosa ci riserva il menù odierno insieme alla collega Francesca Barbieri. Borse di studio da 10.000 euro per programmi di approfondimento della lingua inglese e di stage in 29 destinazioni del mondo, dal centro universitario di Boston alle città internazionali come San Francisco, New York, Londra, Oxford e Sydney. Non mancano altre destinazioni interessanti come Toronto in Canada, Dublino in Irlanda e Malta. Le mette in palio il programma di Education First, l'ente che organizza viaggi internazionali per gli studenti italiani. Diciamo subito che i vincitori potranno utilizzare la borsa di studio entro la fine del 2021, quando si spera che l'emergenza coronavirus sia soltanto un lontano ricordo. Le borse di studio danno accesso a un corso di inglese di 4 settimane, un programma di stage della stessa durata, al volo per la destinazione prescelta, alloggio in una famiglia ospitante o all'interno di un campus, mezza pensione o pensione completa. Possono fare richiesta di partecipazione al programma gli studenti universitari italiani, attualmente iscritti a qualsiasi corso di laurea in Italia. Per fare richiesta bisogna presentare un saggio in italiano di massimo 800 parole che risponda alle seguenti domande: perché hai scelto il tuo attuale corso di laurea? Perché reputi essere la persona più adatta per ottenere la borsa di studio? In che modo questa borsa ti sarà utile per proseguire i tuoi studi e per il raggiungimento dei tuoi obiettivi? Si può fare richiesta di partecipazione entro e non oltre il 30 giugno del 2020. Una giuria di manager di EF valuteranno tutte le domande e selezioneranno i vincitori entro il 31 luglio. Entro il 31 dicembre 2021, come detto, dovrà essere prenotato e svolto il soggiorno all'estero. Per avere tutte le informazioni e per consultare e compilare il modello di partecipazione, basta collegarsi al sito www.ef-italia.it. Siamo allo spazio della testimone della settimana, una studentessa 24enne che ha scelto ingegneria e la Danimarca quali obiettivi in termini formativi e di vita. Elena sta per completare il suo iter di studi a Copenaghen e sulla base della sua esperienza è qui a raccontarvi che esiste un paese dove, se si hanno coraggio e intraprendenza, si può persino essere pagati per studiare. Buon pomeriggio, Elena Mongelli. Buon pomeriggio. Elena, la tua esperienza di studio all'estero comincia con ben 2 estati di scambio in Australia. Cosa hai fatto in quei mesi all'altro capo del mondo? Allora, durante la scuola superiore sono andata in Australia, dove sono stata ospite di questa high school vicino Sydney, e sono andata lì per sperimentare il sistema britannico, è stato molto simile, e anche poi per imparare e migliorare la mia lingua inglese. Elena, quale valore aggiunto ha portato quell'esperienza? Allora, in questo modo sono riuscita a interagire con un nuovo sistema, diciamo, di scuola, di ragazzi dove vedevo che avevano già un'indipendenza economica a 14 anni e dove ho visto anche una prospettiva culturale molto più ampia rispetto a quella italiana. Quindi questo poi mi è rimasto nel momento in cui ho cercato di fare una magistrale all'estero, e quello appunto la mia scelta di oggi. Ti sei iscritta a Ingegneria Energetica al Politecnico di Milano prima di decidere nel settembre 2 anni fa di fare le valigie e fare appunto application in una università danese. Perché questo cambio netto? Diciamo che nella mia università appunto a Milano era molto difficile, ed è anche molto difficile riuscire a fare degli scambi con l'estero, è molto competitiva. E io volevo veramente fare uno scambio completo, appunto data la mia esperienza in Australia. E quindi ho deciso di cambiare completamente, di farla in Danimarca, anche perché questa magistrale che sto facendo si focalizza di più sulle energie rinnovabili, che è un argomento che mi interessa in particolare. Parliamo adesso anche delle ragioni, nello specifico, che ti hanno portato verso Copenaghen. Partiamo anche da quelle economiche. È vero che in Danimarca pagano per studiare oppure è un mito? No, allora questa cosa è vera, che sorprende molto noi che abbiamo studiato in Italia, ma i ragazzi danesi e anche noi studenti internazionali abbiamo la possibilità di avere accesso a quella che è chiamata l'SU, che noi dobbiamo lavorare un 10-12 ore a settimana, qualunque tipo di lavoro, e oltre allo stipendio riceviamo anche quelli che sono 700-800 euro di borsa di studio, quindi in tutto si può arrivare a una ottima indipendenza economica. E tra l'altro anche il livello di sussidi di disoccupazione a Danimarca è molto interessante, no? Sì, esatto, infatti quello è anche il passo che, diciamo, aiuta anche nella decisione della Danimarca, perché sono dei sussidi anche abbastanza alti. Per Copenaghen si riesce a coprire tutte le spese di alloggio, vitto e anche, diciamo, divertimenti, viaggi, piccole cose, ecco. Ovviamente ci sono anche questioni relative proprio all'università stessa, tra i motivi che ti hanno portato in Danimarca, sia dal punto di vista del corso di laurea, ma anche della logistica. In che senso? Allora, scegliere la DTU, che appunto, come detto, è vicino a Copenaghen, per me è stato importante perché comunque c'è l'accesso a una capitale danese, e dato che la Danimarca è una nazione già abbastanza piccola, sono circa 3-5-6 milioni, diventa un po' un rischio andare a mettersi in città più piccole, più che altro per questioni lavorative e poi per questioni proprio logistiche di riuscire a muoversi quando si vuole tornare in Italia o fare vacanze in giro per il mondo, ecco. Com'è la vita in Danimarca, a Copenaghen, in queste settimane così particolari, in tempi di coronavirus, rispetto anche all'Italia? Ma allora, io devo dire, parlando con i miei amici e famiglia in Italia, la situazione qui è estremamente rilassata. Cioè, qui non c'è assolutamente nessuno che indossa mascherine o guanti, è tutto molto tranquillo, non c'è mai stato un vero e proprio lockdown come in Italia, vado fuori a correre tranquillamente ogni giorno e non... adesso hanno anche appena riaperto le scuole elementari, quindi proprio è già stata risolta abbastanza bene. Anche la tua esperienza come studentessa non è cambiato molto o ci sono stati dei cambiamenti? Allora, ci sono stati dei cambiamenti nel senso che abbiamo le lezioni online, però gli esami ci saranno normalmente agli stessi orari e per il resto non mi ha influenzato più di tanto. L'università si è mossa abbastanza in fretta verso la piattaforma online. Continuiamo a parlare della tua esperienza di studio in Danimarca anche in ottica di consigli. Al di là del primo impatto che hai avuto con l'università, come sono strutturate lezioni ed esami in tempi ovviamente normali? Allora, le lezioni sono un po' diverse da quelle italiane, devo dire, perché almeno per la mia esperienza, qui abbiamo delle classi più piccole e c'è un rapporto molto più diretto con il docente, e mentre per le esercitazioni sono molto diverse perché vengono tenute da degli studenti degli anni precedenti. Quindi non, questo consente anche poi per noi, quando abbiamo finito un corso, di proporci come il ruolo che viene chiamato di teaching assistant, che ovviamente è anche retribuito. Serve conoscere il danese per studiare o basta l'inglese? No, le lezioni sono fatte completamente in inglese, però è raccomandabile studiarsi un po' di danese se poi si vuole rimanere in Danimarca, soprattutto per le posizioni di tipo entry level. Sottolinei come un punto di forza del sistema scandinavo sia l'approccio pratico allo studio. Come concretamente si declina questo? Allora, questo è, diciamo, in molti corsi ci vengono proposti lavori di gruppo e prove pratiche, che di solito valgono intorno al 50% del voto, e poi c'è sempre un esame individuale. E l'altra parte di approccio pratico è anche che spesso abbiamo alle presentazioni, quando presentiamo i nostri lavori, vengono anche degli esperti da aziende, quindi abbiamo anche questa possibilità di avere dei feedback diretti da chi si occupa di questo settore magari da 30 anni, quindi sono valuable risposte. E come descriveresti il rapporto studenti-professori? Beh, è un rapporto molto atipico per noi italiani, appunto perché io mi rivolgo ai miei docenti tutti chiamandoli per nome e ci diamo tranquillamente del tu, e non c'è assolutamente alcuna barriera di tipo formale, quindi questo è anche un grosso beneficio per me. Mi ha davvero incuriosito sapere da te che in Danimarca hai potuto usufruire di un periodo di scambio studentesco con gli Stati Uniti senza mai muoverti da Copenaghen. Come funziona? Allora, questo era un'opportunità che c'è nel mio corso di studi, dove ho applicato per questo scambio, dove l'insegnante si focalizza fa 25 anni a questo corso, dove non è necessario andare di persona nella sua università, ma il tutto viene gestito attraverso realtà virtuali, incontri su Skype o Zoom o comunque tutte le piattaforme online, e noi ragazzi poi dobbiamo progettare questo edificio, nel mio caso, e poi coordinavamo il tutto solamente attraverso la piattaforma online, che è stato veramente bello. E al di là degli scambi di studio virtuali, a rendere molto internazionale l'ambiente in cui ti muovi sono i suoi stessi studenti. Ci racconti quanto è globale la tua università? La DTU è veramente internazionale, ma non solo lei. So che siamo sul 60% di internazionali e 40% di danesi. Dove con internazionali vuol veramente dire che ci sono persone da qualunque parte del mondo. Infatti spessissimo mi capita di fare dei pranzi che sembrano più delle sedute di geopolitica che dei pranzi normali, ecco. E Elena, diamo un'occhiata anche adesso al mercato del lavoro che ti aspetta. Da studentessa di ingegneria, vedi delle posizioni interessanti in Danimarca oppure guarderai altrove, allargherai lo sguardo all'Europa o oltre l'Europa? Ma devo dire che la Danimarca, per quello che sto studiando, si offre veramente bene. Poi la ministra ha appena sostenuto che interverranno con un forte sviluppo economico nei prossimi anni, e quindi io penso sinceramente che rimarrò in Danimarca nei prossimi anni. Poi in futuro probabilmente guarderò anche all'estero, ma per ingegneria è veramente consigliata rimanere in Danimarca. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Elena Mongelli, 24enne studentessa di ingegneria in Danimarca. Elena ha scelto la Scandinavia e il suo sistema accademico per costruire il proprio futuro. Ce ne sta spiegando le ragioni e ci sta fornendo importanti consigli su come seguirne le orme. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. Passiamo adesso alla vita pratica a Copenaghen. Subito i tuoi consigli su come trovare alloggio. Hai dei siti da consigliare? Sì, assolutamente. Consiglio a tutti di iscriversi a Bolig Portal. Si paga una piccola quota a fronte, ma è stato veramente un aiuto incredibile. Per trovare casa a Copenaghen può essere veramente un'esperienza, vorrei dire, drammatica quasi. E quali sono le zone magari più economiche, migliori dove cercare se si vuole evitare il centro? Immagino sarà più costoso. Sì, sì. Consiglio di cercare in quella zona che si chiama Norrebro, come si direbbe in Italia, e poi anche le zone verso il sud di Copenaghen. Quelle sono particolarmente economiche e anche ben collegate, perché passa la metro, quindi ci si mette 2 secondi a tornare verso il centro. E occorre registrarsi a livello appunto di residenza non appena arrivati in Danimarca? Se sì, è una trafila burocratica lunga? Allora, come studenti è molto facile riuscire a registrarsi, perché abbiamo già tutti i documenti che arrivano dall'università, quindi è una cosa che io penso che ci ho messo una settimana forse, e poi ero a posto con tutti i documenti. Però sì, è una cosa che va fatta necessariamente appena inizia l'università. Altre cose per chiudere imprescindibili da fare non appena messo piede a Copenaghen, che magari appunto non ci immaginiamo. La Danimarca fa parte dell'Unione Europea, però chiaramente è uno stato straniero. Magari cercare di capire come funziona il sistema sanitario, che è un attimo diverso da quello italiano, quindi segnarsi i numeri utili, capire dove è il proprio medico di base, trovarsi subito una bicicletta perché i mezzi pubblici costicchiano, e generalmente darei questi come principali avvisi. E poi ovviamente quando firmate un contratto state sempre attenti a chi state dando i vostri soldi. Elena, ringraziandoti davvero a nome di tutti i nostri ascoltatori per i tantissimi e davvero preziosi consigli che ci hai dato, ti faccio la nostra domanda di rito. Prima di salutarti, quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo o coetanea che sta pensando a un espatrio, magari per studio? Allora, vi raccomando tantissimo di iscrivervi alle residenze studentesche che può offrire la vostra università, perché qui ce ne sono molte e sono decisamente economiche. Poi vi raccomando anche di prenotarvi il prima possibile un Airbnb o comunque un alloggio provvisorio, perché non è detto che riusciate a trovare alloggio subito, quindi se non avete conoscenze fatelo. Poi vi consiglierei anche di comprarvi appena possibile una bicicletta o di affittarne una anche, perché qui si usa moltissimo andare in bici, anche 10 km non è un problema. Poi vi consiglierei, prima di venire, se iniziate già a studiarvi un poco di danese, queste cose sono comunque utili quando vi presentate in un mercato danese, di saper già dire quelle piccole frasi ed aver raggiunto un livello A2. Ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia, Guglielmina De Simone di Eures Italia. Buongiorno a tutti, oggi vi parlerò dell'iniziativa Ti Aspettiamo, realizzata dalla rete Eures con il Bistum Limburg e gli uffici Job Placement dell'Università di Bari e dell'Università Sor Orsola Benincasa di Napoli, per il reclutamento di educatori e educatrici da inserire in asili nido e scuole materne cattoliche di Francoforte. Già nella sua prima edizione l'iniziativa ha portato all'assunzione di personale italiano e altre posizioni sono attualmente aperte per il 2020. I requisiti richiesti per candidarsi sono la laurea in scienze dell'educazione o della formazione L19 e la conoscenza della lingua tedesca a un livello almeno B1. Sarà possibile raggiungere questo livello di conoscenza linguistica anche nel corso della selezione, ma prima dell'inizio dell'attività lavorativa. La retribuzione offerta è di 2.592 euro lordi mensili, che potrà arrivare a 2.848 lordi mensili dopo il riconoscimento del titolo. Il percorso di selezione prevede 2 step. Il primo è un momento informativo che si terrà online a fine maggio, nel corso del quale saranno descritte dettagliatamente le condizioni lavorative offerte e saranno forniti ulteriori indicazioni sui sostegni finanziari erogabili ai selezionati grazie al coinvolgimento nell'iniziativa del progetto Your First Eures Job. Il secondo momento è il colloquio di selezione online. Le persone interessate possono inviare la loro candidatura entro il 31 maggio 2020 a personalmarketing.chita@bistumlimburg.de e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it e a eures.recl.sv@arlas.campania.it. La locandina con le indicazioni dettagliate dell'offerta, i contatti di riferimento e tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ampal.gov.it nella sezione dedicata ad Eures. Siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Oggi vi parliamo di un libro che ha rappresentato, se vogliamo, un esperimento. Il suo autore, il giornalista Enzo Riboni, ha seguito negli anni la traiettoria di ben 101 giovani connazionali emigrati oltre confine, disegnando su carta una mappa dell'evoluzione delle loro carriere, come ci spiega il suo stesso autore. Si tratta di un campione statistico molto particolare, perché sono tutti ragazzi, innanzitutto di età compresa più o meno tra poco più di 20 e poco meno di 30. Sono tutti laureati, spesso in prestigiose università all'estero. Sono quasi tutti, questa è una particolarità che va sottolineata, quasi tutti ragazzi che già in fase liceale, cioè in quarta liceo, hanno fatto l'esperienza all'estero, molti come in intercultura, e questo li ha subito, come dire, proiettati verso un orizzonte più ampio. Quindi sono delle fotografie in due istanti. Sulla base del tuo racconto, come stanno cambiando le carriere internazionali? Quanto sono ormai mobili? Cioè non si sta di fatto più nello stesso paese o nella stessa azienda a lungo? I capitoli di questa raccolta di libri, il primo di questi capitoli è intitolato Globetrotter. Globetrotter in qualche modo risponde un po' alla domanda che mi hai appena fatto, cioè una buona componente di questi ragazzi qui, ecco, rispetto al mio campione, il 17%, ragazzi che a 25-26 anni hanno già girato mezzo mondo, prima cambiando per quanto riguarda la loro formazione, cambiando università, poi progredendo nelle carriere o comunque nella volontà di sperimentare nuove sfide, cambiando paesi, cambiando continenti. La cosa significativa, tra l'altro, è che non so come può essere interpretato questo dato, cioè la maggior parte di questi globetrotter sono femmine, cioè il 65% di questi che sono più mobili nel mondo sono femmine. Sulla base delle storie che hai seguito, quali consigli ti senti di dare a giovani che vogliono intraprendere adesso una carriera internazionale? Se si vuole muoversi, se si ha questa prospettiva, questo interesse verso la globalità, è una buona cosa fare questo primo tentativo, no? Nelle scuole superiori, in quarta superiore, c'è la possibilità di fare esperienze di 3 mesi, 6 mesi, un anno in scuole estere, e chi l'ha fatto poi ha trovato un'apertura, comunque si comincia a capire come si sta. Per maggiori informazioni, Ciao Italia, 101 storie di cervelli in fuga di Enzo Riboni, edizioni Mind. Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Beh, scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia, ma soprattutto fornire consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi è davvero facile, basta scrivere a generazionemobile@radio24.it.